Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, è il momento delle storie, dei fatti e dei personaggi della nostra Italia in controluce. C'è un'Italia che si difende dai rischi che vede nella realizzazione delle grandi opere, dai rigassificatori alle discariche ai termovalorizzatori. Il forum NIMBY tiene sotto osservazione questo fenomeno. Not in my backyard, non nel mio giardino. Un fenomeno che non riguarda solo i comitati o gli ambientalisti che salgono sulle torri con gli striscioni, ma anche i politici. È questa la nuova frontiera. A dire no sono gli amministratori che temono il calo del consenso. Un dato interessante in tempi di elezioni. Ce ne parla Maria Chiara Grandis. Nel 2009 sono stati 283 i casi di infrastrutture contestate nel nostro paese. Secondo il NIMBY Forum, che dal 2004 analizza il fenomeno sulla base dei dati del proprio osservatorio, sono cresciute del 7%. Sono più frequenti al nord rispetto al sud e ora riguardano anche gli impianti energetici a fonti rinnovabili. Tuttavia il primato delle opere contestate spetta per il 56% al settore elettrico. A seguire c'è quello dei rifiuti. Fra i casi che l'osservatorio NIMBY prende in esame c'è il gassificatore di Albano Laziale, un progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica attraverso il combustibile derivato dai rifiuti. I lavori sono fermi in attesa di pronuncia del TAR dopo i ricorsi dei comitati dei cittadini e l'intervento dei sindaci dei comuni di Albano e dintorni. Un altro esempio è il rigassificatore di Brindisi, impianto per il trasporto di gas. Gli enti locali sono contrari alla costruzione e dopo l'autorizzazione del 2003 l'inizio dei cantieri è bloccato anche a seguito di un'inchiesta sulle procedure d'autorizzazione. Per il presidente del forum NIMBY, Alessandro Beulke, le contestazioni oggi hanno una natura diversa rispetto al passato. Un'evoluzione del fenomeno NIMBY, che da NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardino, che è quel fenomeno di opposizione di tipo popolare, diciamo, dei cittadini che sono interessati e giustamente affezionati al proprio territorio, a un fenomeno diverso che abbiamo chiamato NIMTO, not in my term of office, non nel mio mandato, e quindi una connotazione squisitamente politica del fenomeno. Altro settore critico dal punto di vista delle contestazioni è quello delle infrastrutture per i trasporti, strade e ferrovie. E anche per Ferrovie dello Stato le difficoltà per il completamento dell'alta velocità non arrivano dai cittadini. Lo spiega l'amministratore delegato Mauro Moretti. Abbiamo invece delle difficoltà laddove, prima ancora che i cittadini, vi è una contrapposizione delle istituzioni locali. L'esempio più tipico sulle Alpi, io confronto sempre la situazione che abbiamo sul Brennero, dove non ci sono particolari problemi, e sulla Val di Susa. Sono opere assolutamente comparabili, con territori assolutamente comparabili, però la storia sono completamente diverse. L'emblema delle grandi opere nel nostro paese oggi è il ponte sullo Stretto di Messina, la cui realizzazione prevede anche il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Per Massimo Averardi, direttore della progettazione dell'ANAS e consigliere della società Stretto di Messina, la ricerca del consenso dei cittadini è un problema politico. Quando un'opera ha avuto tutte le approvazioni che ha avuto il ponte sullo Stretto, continuare a metterla in discussione sotto il profilo tecnico, per esempio, o sotto il profilo amministrativo, non è corretto. A differenza di altri paesi dell'Unione Europea, in Italia c'è anche un problema di strumenti per adeguate analisi tecniche e per la consultazione dei cittadini. Lo dice Giulio Napolitano, docente di diritto pubblico all'Università Roma 3. In Francia c'è una commissione indipendente per il dibattito pubblico che istruisce la consultazione delle popolazioni interessate e i dati tecnici prima che sia progettata qualsiasi opera pubblica. E anche in Inghilterra una legge del 2008 prevede che ci sia un'apposita commissione tecnica per i progetti infrastrutturali strategici che valuta prima di far partire qualsiasi cantiere se un'opera serve e dove è opportuno localizzarla. E se nella maggior parte dei casi è l'impatto ambientale la motivazione principale per cui un impianto viene contestato, per Legambiente è una questione di priorità, lo spiega il presidente Vittorio Cogliati Dezza. Si individuano in base all'idea di paese verso cui si vuole andare, quindi bisogna stabilire se in alcune zone del paese bisogna strutturare il paese ex novo. Sto pensando anche alle autostrade in Sicilia, e la stessa cosa vale per esempio per la TAV in Val di Susa. Lì c'è una priorità che è il nodo di Torino, se non si risolve prima quella è inutile fare la galleria, e quindi è questo il nodo fondamentale. Italia in controluce. E adesso invece torniamo a Genova per raccontare la storia di una moschea che divide e che potrebbe essere però anche la storia di un'altra città. Andrea Ferro. Il comune ha individuato l'area al Lagaccio, popoloso quartiere collinare, e l'ha concessa gratuitamente per 60 anni alla comunità islamica. Lì, accanto ad un impianto polisportivo e ad un centro direzionale semi-abbandonato, sorgerà la Moschea di Genova. O meglio, questo sarebbe il progetto. Il condizionale infatti grava insistente su una questione che in città ha diviso. Varie ipotesi sono circolate negli anni a proposito dell'area sulla quale edificare il luogo di culto, porto antico compreso, innescando infinite reazioni tra politica e sentimento popolare. Talvolta il dibattito è diventato pure una questione di ordine pubblico, con cordoni di polizia e blindature del quartiere. Per impedire la costruzione della moschea, a Lagaccio nei giorni scorsi un gruppo di abitanti si è rivolto al TAR. Felice Ravalli è il portavoce. Il discorso base è che noi non siamo contro niente, noi siamo solamente contro l'occupazione abusiva di un territorio che noi aspettiamo da 40 anni. Il ricorso al TAR per riuscire a fare in modo di bloccare questi lavori e fare in modo che naturalmente vengano ripresi quei discorsi interrotti sulla realizzazione dei progetti già approvati in comune. Il pregiudizio ce lo stanno facendo venire, ma per un semplice motivo, perché ci stanno in tutti i modi facendo subire anche le iniziative di persone che non abbiamo mai visto nel quartiere, dove verranno a festeggiare con degli abusivi che occupano quell'area una festività musulmana. Questo continuo imperversare di iniziative a favore loro sta creando un clima esageratamente teso. Contemporaneamente in città ha preso corpo e vigore il fronte di chi vede nella costruzione della moschea un passaggio fondamentale dell'integrazione della comunità islamica e un argine agli integralismi. Carlo Besana, per anni farmacista al CEP di Pra, una delle banlieue genovesi, ha addirittura scritto una canzone dal titolo Ramadan. Ramadan, facciamo Ramadan, cristiani e musulmani, tenendoci per mano. Oh, oh, Ramadan, facciamo Ramadan, cristiani e musulmani, che Ramadan. E una canzone può essere un modo per abbassare i toni. La paura è l'elemento sul quale chi ha necessità di avere visibilità politica ha agito per dividere la gente, nel senso che il diritto al culto è garantito dalla Costituzione, al di là del fatto che chiunque si sente in una società più civile, se il diritto al culto viene garantito, al di là di quello che dicono le leggi. In questo caso si è proprio alimentato il sentimento della paura, che esiste perché tutto quello che è diverso ci fa paura, quindi è normale che la gente possa provare questo sentimento, però un conto è dire esiste questo sentimento, però spieghiamo, facciamo un ragionamento molto serio su questa questione in modo che la gente possa superare queste paure che, ripeto, sono insite nella natura umana. Un conto è cavalcarle per un bieco calcolo politico, perché quando le cose vengono urlate non c'è tempo per una riflessione seria. È tutto per questa edizione di Italia in Controluce, ci risentiamo oggi alle 13.30, buona giornata.